Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. La stagione della dichiarazione dei redditi entra via via nel vivo e quest'anno circa 14 milioni di contribuenti fra dipendenti e pensionati presenteranno la denuncia dei redditi con il modello 730. Ci sono diverse novità quest'anno, ogni stagione fiscale presenta inevitabilmente le sue e ieri tra l'altro di tutto questo si è anche ampiamente parlato nella tradizionale kermesse del Sole 24 Ore dedicata ai professionisti del fisco, telefisco, di cui parleremo tra poco. Oggi però noi a Salva Danaio ci focalizzeremo proprio sul 730, guida le novità di quest'anno e qual è anche tutta quella documentazione che dobbiamo cominciare a mettere da parte, da dare tra qualche tempo al nostro commercialista per poterla fare nella maniera più corretta possibile. 800 24 00 24, numero verde per voi per cominciare da subito a prenotare i vostri interventi, ma ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Una rapida occhiata alla borsa, il quadro stamattina, come vi dicevo anche nel giornale radio, è negativo. Abbiamo un calo di 1,5% su Londra, Parigi -1,41%, Francoforte -1,30%, Milano -1,11%, un quadro che stamattina era abbastanza ragionevole che fosse negativo dopo i forti balzi di ieri. Ieri il mercato è stato notevolmente sostenuto dal settore bancario, dal settore auto, insomma sono sempre un po' questi i temi oggetto dell'interesse da parte degli investitori, e oggi invece tornano un po' a perdere terreno e quindi si prende rapidamente beneficio, segno anche questo dell'incertezza che sta imperversando appunto sui mercati azionari. A Piazza Affari, che sta perdendo 1% sull'S&P MIB, come vi dicevo le vendite sono particolarmente forti su Fondiari Assai, -4,85%, il settore assicurativo è un po' in sofferenza in questo periodo, Telecom -4,5%, oggi il gruppo riunisce il suo consiglio di amministrazione anche per analizzare la situazione di Telecom Argentina, Bulgari -4%, Fiat -3,33%, nonostante le promesse per un intervento di sostegno al settore che il governo appunto ha rilasciato nelle ultime ore, un piano di supporto appunto al comparto in forte difficoltà nel nostro paese come a livello mondiale, verrà deliberato nel giro di 10 giorni, ma nonostante questo Fiat sta perdendo terreno anche perché le immatricolazioni di gennaio dovrebbero essere in calo pesantissimo. Luxottica -3%, Pirelli -3%, STM dopo i dati rilasciati ieri a Parigi anche oggi perde 2,5%. Vediamo però i titoli con il segno più davanti, non abbiamo solo cattive notizie. Italcementi +2,64%, Mondadori +2%, Parmalat +1,90%, bene anche oggi titoli petroliferi, Eni +1,12%, Snam Retegas in rialzo di 1%, Unipol +0,9%. Euro su dollaro stamattina a 1,30,80, il petrolio quota sui $41 al barile, queste erano appunto le quotazioni in Asia questa mattina, anzi $42, il Brent a Londra ha una quotazione un po' più alta, $44,5, Euribor a 3 mesi continua a scendere, oggi siamo al 2,10%. Lasciamo i mercati, andiamo subito al tema di questa mattina, prima però della nostra scheda. Buongiorno e grazie di essere con noi alla collega delle Sole 24 Ore, redazione di Norme e Tributi, Maria Carla De Cesari. Buongiorno. Reduce dalla faticaccia di ieri, perché telefisco è un appuntamento tutt'altro che trascurabile anche dal punto di vista fisico, perché è una vera e propria maratona sulle novità fiscali, Maria Carla. È una vera e propria maratona che è iniziata ieri mattina alle 9, definita ieri alle 17.30, sotto l'obiettivo appunto le principali novità della manovra finanziaria, ma anche le novità portate dal decreto legge 185 che era stato approvato. Il pacchetto anticrisi che era stato approvato giusto la sera prima, per cui come dire telefisco che è sempre alla fine di gennaio, mai come quest'anno è stato veramente puntuale nello spiegare ai professionisti e agli operatori le principali novità per le famiglie e per le imprese. C'è qualche novità in particolare sulla quale avete soffermato l'attenzione, oltre alle misure anticrisi ovviamente avranno un impatto sicuramente rilevante, tra l'altro di alcune di queste come per esempio il bonus straordinario parleremo tra un po' con il nostro Luciano De Vico, il nostro esperto di questioni fiscali che sarà con noi per tutta l'ora. Altre questioni sotto la lente di ingrandimento dell'ambito dei commercialisti, Maria Carla? Ma guarda, oltre al bonus fiscale che devo dire dai commenti anche dei colleghi, era tra, come dire, tra le notizie, tra le novità più attese, più gettonate, anche se appunto l'agenzia su questo si è riservata di emettere una circolare che appunto verrà rilasciata probabilmente già nei prossimi giorni, forse oggi, insomma, o comunque a fine settimana. Oltre al bonus, un altro tema molto sentito è stato l'IRAP, con la possibilità della deduzione forfettaria. L'agenzia ha risposto a parecchi quesiti proprio sull'IRAP, chiarendo che lo sconto è forfettario, senza la necessità di dover ricalcolare le spese per il personale, le spese per oneri e interessi, per interessi, ma come dire, la deduzione è subordinata proprio al fatto che queste spese siano sostenute. Tra l'altro questo è il titolo portante proprio del pezzo a pagina 5 del Sole di questa mattina. Tra l'altro, oltre ovviamente a tutto il resoconto che appare sul quotidiano quest'oggi, di Telefisco si continuerà a parlare e dei temi di cui si è discusso ieri, perché la prossima settimana ci saranno 5 uscite sui temi della manovra anticrisi. Certo. E sarà tra l'altro una staffetta anche con la collaborazione di Salva Danaio, quella che verrà organizzata dal Sole 24 certo. Ore con il sito internet, e poi ci saranno anche delle uscite successive, credo. Certo, noi in questi giorni stiamo pubblicando commentato il decreto legge 185, come hai detto tu, la prossima settimana inizieremo a pubblicare degli inserti proprio di spiegazioni, dai mutui alle misure per la famiglia, alle misure per il lavoro e le imprese, e poi diciamo Telefisco continuerà idealmente anche a febbraio, perché a febbraio pubblicheremo il TUIR, il DPR 917 dell'86 con aggiornato, e allegato al nuovo testo del TUIR, al testo del TUIR aggiornato, allegheremo anche un dischetto con le relazioni degli esperti di Telefisco e tutta la documentazione necessaria per orientarsi nella manovra. Questo avverrà il 18 febbraio. Grazie mille a Maria Carla De Cesare allora per essere stata con noi. Probabilmente, forse, la risentiremo anche la settimana prossima in qualche puntata di Salva Danaio. Tra l'altro, visto che ce l'hai ricordato e visto che la prima uscita sarà proprio dedicata alle novità sui mutui, il famoso tetto del 4% certo. E quant'altro, noi in realtà avevamo in programma di farla a Salva Danaio domani, in virtù dell'uscita invece del Sole 24 Ore l'abbiamo traslata a lunedì, e domani a Salva Danaio ci occupiamo di temi di investimento tradizionali, ci occuperemo di valute euro contro tutti, per cui questo anche come informazione di servizio. Adesso invece andiamo al 7:30. Si rialza il sipario sulla stagione delle dichiarazioni fiscali. E come di consueto, il primo modello a scendere in pista è quello semplificato, il modello 730, che si rivolge a circa 14 milioni di contribuenti, tra dipendenti e pensionati. Ma quali sono le novità per il 2009? Debutta innanzitutto la possibilità per i nuclei familiari a basso reddito di richiedere il bonus famiglia previsto dal decreto anticrisi e la detrazione del 19% riconosciuta agli studenti universitari fuori sede anche nel caso di spese sostenute per canoni relativi a contratti di ospitalità. Aumenta a 4.000 euro il limite per gli interessi pagati sui mutui ipotecari per l'abitazione principale, convertibili nella detrazione IRPEF del 19%. Da quest'anno è possibile inoltre sfruttare la detrazione del 19% anche sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico e per gli abbonamenti del trasporto pubblico. Nel dettaglio, la detrazione del 19% spetta su un importo massimo di 250 euro e quindi il risparmio massimo sarà di 48 euro. Accanto alle novità, si potrà comunque beneficiare ancora dello sconto del 55% e 36% per le spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia e del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori. Come sempre, è importante prestare attenzione ai tempi. Per la presentazione al datore di lavoro o ente pensionistico c'è tempo fino al 30 aprile, mentre per la consegna ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati la scadenza è il 1 giugno 2009. 800 24 00 24 è il vostro numero verde per intervenire in diretta a Salva Danaio ed eventualmente rivolgere i vostri quesiti a me, ma poi ovviamente non mancherò di girarli al nostro Luciano De Vico, esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore. De Vico, buongiorno e ben ritrovato nel nostro contenitore dedicato alla finanza personale e in questo contesto al fisco. Benvenuto. Grazie, buongiorno a voi tutti. Allora, vedremo oggi, come dicevamo, di parlarvi di tutte le principali novità che ci riserva il 7.30 quest'anno, ricordando che per la presentazione, come dicevamo anche nella nostra scheda, al datore di lavoro o all'ente pensionistico c'è tempo fino al 30 aprile, mentre per la consegna al CAF, quindi al Centro di Assistenza Fiscale o al professionista abilitato, la scadenza è il 1 giugno 2009. Prima di tutto, però, prima di fare noi una consegna, dobbiamo aspettare che l'azienda o l'ente pensionistico ci consegni qualcos'altro, Luciano De Vico. Certo, la scadenza è prossima, fine febbraio, entro il 28 febbraio, il sostituto di imposta che è erogato a redditi di lavoro dipendente, quindi il nostro datore di lavoro, ovvero l'ente pensionistico che ha erogato la pensione, ci dovrà rilasciare il famoso modello CUD, che è indispensabile se si vuole presentare il modello 730 ad un CAF o uno degli intermediari abilitati alla redazione del modello, per indicare sul modello i redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti e quindi dedurre dall'imposta complessiva la ritenuta che è indicata al punto 5 del modello CUD. Da lì in avanti poi abbiamo invece qualche settimana di tempo per poter radunare tutta la documentazione necessaria a fare la nostra dichiarazione dei redditi. Anche questo è insomma un appuntamento molto importante, perché magari nel corso degli ultimi mesi siamo stati un po' distratti, abbiamo così smarrito qualche, non lo so, ricevuta di pagamento, per esempio se abbiamo fatto un lavoro per la ristrutturazione della nostra casa, o magari il pagamento della rata del mutuo, piuttosto che invece lo scontrino della farmacia se abbiamo acquistato un farmaco che si può detrarre, per cui anche lì è tempo di fare ordine. È tempo di fare ordine, ricordandoci sempre che se si usufruisce del sostituto d'imposta, cioè del proprio datore di lavoro per la presentazione del modello, a questo occorre presentare il modello 730 già compilato, in quanto lui si limiterà ad effettuare i conguagli, a riconsegnarci entro il 31 maggio la dichiarazione, la ricevuta per meglio dire della dichiarazione, il famoso modello 730/3, dove c'è anche il prospetto di liquidazione delle imposte che saranno trattenute o che saranno rimborsate al dipendente. Viceversa, se si usufruisce della seconda strada, e cioè quella della presentazione al CAF o un intermediario abilitato, la cui scadenza, lo ricordavi tu, era il 1 giugno, 31 maggio, 1 giugno, bisogna presentare tutta la documentazione occorrente al CAF o all'intermediario per rilasciare il cosiddetto visto di conformità. In buona sostanza, il CAF attesta che la compilazione del modello è conforme alla documentazione esibita, di cui ovviamente il motivo per cui occorre esibire tutta la documentazione, non solo il CUD, ma anche eventuali scontrini, spese mediche, interessi, quietanze di pagamento di interessi passivi su mutui e tutte le spese che danno diritto a una deduzione o una detrazione d'imposta. Quest'anno l'amministrazione fiscale, ne abbiamo parlato tante volte a Salvadanaio, ma vale la pena magari ricordare i punti fermi della questione. Dicevo, l'amministrazione fiscale dà la possibilità ai nuclei familiari a basso reddito di chiedere il bonus famiglia. Quale legame c'è fra questa richiesta e la presentazione della dichiarazione dei redditi, De Vico? È un legame importante, in quanto la regola principale per la richiesta del bonus famiglia è di avanzare un apposito, di predisporre un apposito modello e consegnarlo al proprio sostituto d'imposta, che sia privato, che sia un sostituto d'imposta oppure un ente pensionistico. La consegna deve avvenire entro il mese di febbraio, ovvero successivamente, ma la prima regola è questa, cioè consegna del modello al proprio sostituto d'imposta. Se poi non si consegna il modello al proprio sostituto d'imposta, si può richiedere il bonus in altre due maniere. Attraverso un'apposita istanza da inoltrare telematicamente, eventualmente tramite un CAF o un professionista abilitato direttamente all'Agenzia delle Entrate, ovvero richiederla nel modello. Ecco che nel modello 730 compare il quadro R destinato alla richiesta del bonus straordinario, in cui peraltro si attesta che sussistono tutte le condizioni previste dalla norma, e la norma, il decreto legge 185 del 2008, convertito l'altro ieri, per usufruire appunto del beneficio fiscale. Andiamo alle altre novità di quest'anno, delle quali ci possiamo avvalere per fare, come dire, una dichiarazione dei redditi più leggera, più sostenibile. Partirei proprio, tra l'altro questo è un tema che affronteremo anche lunedì, lo ricordo, lo abbiamo già detto prima anche con Maria Carla De Cesari a Salvadanaio le novità sui mutui. Farei però un punto sugli interessi passivi, visto che lo scorso anno molte famiglie hanno visto lievitare a dismisura proprio gli interessi pagati sul mutuo, sulla scia di quanto stava accadendo sui mercati internazionali. Per fortuna adesso ci stiamo un po' placando da questo punto di vista. Proprio in virtù di quello che stava accadendo lo scorso anno, il governo ha deciso di aumentare, no? la detrazione prevista per gli interessi appunto versati sul mutuo. Sì, in realtà la novità consiste proprio in questo: è aumentato l'importo, la franchigia, diciamo, l'importo su cui calcolare la detrazione del 19%. Oggi l'importo è salito a 4.000 euro. Deve trattarsi ovviamente di interessi passivi, oneri accessori, eventuali quote di rivalutazione dipendenti per mutui ipotecari che sono contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. Naturalmente la detrazione, lo ripetiamo, spetta su un importo massimo di 4.000 euro. In caso di titolarità del contratto di mutuo, il limite quindi è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, e quindi nel caso per esempio di coniugi cointestatari del mutuo l'importo massimo è di 2.000 euro ciascuno. Anche qui ovviamente occorre ricordare che alcuni CAF richiedono, ai fini di lasciare sempre il visto di conformità, richiedono che oltre al contratto di mutuo anche l'atto di acquisto. Poi questo perché? Perché se l'importo del mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, possono essere portati in detrazione soltanto gli interessi passivi relativi alla sola parte del mutuo che copre il costo aumentato evidentemente delle spese notarili e degli altri oneri accessori acquiste. Quindi se io ho stipulato un mutuo che supera di 100.000 euro il valore dell'immobile, naturalmente su quella quota parte non è possibile ottenere la detrazione. Esatto. Chiarissimo. Ci sono alcuni ascoltatori, magari questo è un tema un po' più complicato che rimando alla seconda parte di Salvadanaio, che ci stanno facendo delle domande sulla modalità di tassazione sui compensi per lavoro straordinario. La slitto allora alla seconda parte. Faccio fare la prima domanda di oggi al nostro ascoltatore Isa da Padova, che saluto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, l'ospite. E una domanda: io quest'anno ho acquistato un stufa pellet e avevo diritto a detrazione 36%, no? Sì. Però la fattura mi è stata emessa verso fine dicembre. Per motivi tecnici ho dovuto pagare a inizio gennaio. Ho il diritto di portarla a detrazione di quest'anno o mi slitta di un anno? Isa, credo proprio che dovrà subire lo slittamento. Sì, infatti Luciano De Vico. Ebbene sì, perché purtroppo per le persone fisiche questo tipo di detrazioni vale il principio di cassa, e cioè il momento in cui l'onere viene materialmente sostenuto, e se quindi il bonifico, ovviamente purché sussistano tutti gli altri requisiti, ricordiamo che il bonifico deve riportare anche la partita IVA, il codice del destinatario e quindi del soggetto che ha messo la fattura e tutti gli altri requisiti, ma potrà essere portato in detrazione soltanto nell'anno in cui è avvenuto materialmente il pagamento. Il pagamento comunque, Isa, al limite, ecco, insomma, slitta un po' di qualche mese, ma in ogni caso il governo ha confermato anche per quest'anno l'intervento appunto del 36% per i lavori di ristrutturazione, per cui deve avere un po' di pazienza. Adesso è andata così, l'importante è che quantomeno l'incentivo fiscale sia stato mantenuto, perché sì, su questo del 36% non si era discusso, ma visto che è stato molto in bilico l'altro, quello più corposo del 55% per gli interventi di riqualificazione, almeno accontentiamoci del fatto che questi incentivi siano stati mantenuti. Eccoci ritrovati insieme. L'operazione 7.30 sta entrando nel vivo, interesserà almeno 14 milioni di contribuenti quest'anno, e quindi entro la fine del mese la nostra azienda, il nostro sostituto d'imposta, ci consegnerà il CUD, base di partenza fondamentale per poter poi così fare una verifica dei redditi che abbiamo percepito lo scorso anno e da lì partire per capire invece quali agevolazioni il fisco ci può dare in termini di deduzioni, detrazioni, quindi fare la nostra dichiarazione dei redditi. Alla luce anche delle numerose novità che ci sono quest'anno, anche in termini di maggior risparmio, proprio per venire incontro alla crisi economica, il governo ha predisposto diversi interventi con i quali dobbiamo appunto confrontarci anche quest'anno. Ci sta aiutando ad orientarci, come al solito, nel ginepraio del fisco il nostro Luciano De Vico, esperto di questioni fiscali del Sole 24 Ore. Tra l'altro, tanti temi affrontati anche ieri a Telefisco, che è la consueta manifestazione annuale organizzata proprio dal Sole 24 Ore per spiegare tutte le novità fiscali alla vastissima platea di commercialisti, appunto, di esperti del settore, professionisti del settore. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione. Sentiamo Massimo da Messina. Massimo, benvenuto. Grazie, buongiorno. Poi sì, vado con la domanda. Ho rispettato l'università, il corso di laurea dell'università, pagando a ottobre l'intera cifra, sì, intorno ai 70.000 euro, però per poter andare in pensione, infatti ho infatti. E adesso vorrei sapere se posso dedurre l'intera somma, ovviamente penso di no, ma in qualche anno posso portarla in deduzione questa spesa. Grazie Massimo, credo che ci sia un'opportunità per lei. Luciano De Vico, però che bello, che bel impegno finanziario è stato anche per il nostro ascoltatore, non immaginavo che costasse così tanto. Le spese sostenute, non ho sentito bene la domanda, si riferiscono a? Al riscatto di laurea. Sì, allora si tratta in buona sostanza di riscatto che ovviamente per quanto riguarda la normativa fiscale dà diritto a una detrazione, da una deduzione dal reddito, in quanto si tratta ovviamente di contributi che sono detraibili nella misura del 19%, e quindi di fatto attraverso la compilazione del modello 730 il nostro ascoltatore potrà indicare nell'apposito rigo l'ammontare che viene che è stato pagato, sempre si va per con il principio di cassa, e quindi il soggetto pensionistico, ovvero il datore di lavoro, riconoscerà ovviamente la detruzione nella misura detta. Infatti 19% dicevamo su 70.000 euro. Tra l'altro credo che sia possibile fare la detrazione anche eventualmente se il riscatto della laurea ha riguardato non direttamente il contribuente, ma anche magari un familiare, credo. È una novità di quest'anno, nel senso che la detrazione del 19% spetta anche per i contributi che sono versati per il riscatto del corso di laurea di familiari dei familiari che sono fiscalmente a carico, e quindi è la novità che riguarda quest'anno, dal modello 730 di quest'anno. Perfetto. Tornando invece al tema che avevo anticipato prima della nostra pausa, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di scegliere una differente modalità di tassazione sui compensi per lavoro straordinario. C'è un ascoltatore che ci chiede perché ha avuto la riduzione al 10% della tassazione sugli straordinari. È possibile segnalarlo nella dichiarazione? Come va fatto e a che fine, Luciano? De Vico. Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva sugli straordinari, questo ha riguardato soltanto i dipendenti del settore privato. Per il periodo compreso dal 1 luglio al 31 dicembre dell'anno scorso, che hanno percepito quindi compensi per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, oppure anche per gli incrementi di produttività. In questo caso il datore di lavoro che ha fatto, anziché far concorrere questo importo alla formazione del reddito complessivo e quindi, per intenderci, applicare l'aliquota a scaglione, ha di fatto applicato fino all'importo di 3.000 euro un'imposta sostitutiva del 10%, oppure, se più conveniente, ha applicato la tassazione ordinaria. Ora, che c'entra questo con la compilazione della dichiarazione dei redditi? Attraverso il modello 730 si deve in alcuni casi correggere il comportamento del sostituto di imposta. Infatti si è obbligati a indicare questi dati, quelli che sono rintracciati sempre dal modello CUD ovviamente, nella dichiarazione dei redditi, se per esempio si hanno due CUD che non sono stati conguagliati, due CUD quindi rilasciati da datori di lavoro differenti, oppure se il datore di lavoro per esempio si è sbagliato e ha applicato l'imposta sostitutiva del 10% su un importo superiore a quello che avevamo detto di 3.000 euro. Viceversa, si può, e quindi la compilazione facoltativa del modello 730, compilare i riquadri destinati appunto alla detassazione degli straordinari, se si ha interesse a far concorrere alla formazione del reddito complessivo questo importo che è stato invece assoggettato ad imposta sostitutiva. Un esempio può essere quello semplice di molti oneri portati in deduzione, per cui l'imposta netta scompare. A quel punto, facendo concorrere questi redditi alla formazione del reddito complessivo, il soggetto avrà un risparmio di imposta, e quindi in buona sostanza quell'imposta sostitutiva che è stata versata a monte dal datore di lavoro evidentemente gli sarà restituita attraverso il modello 730. Ecco, diciamo che la conclusione che posso trarre io è che se ci troviamo in una situazione in base alla quale vogliamo scegliere una determinata modalità di tassazione sul compenso per lavoro straordinario, non compiliamo da soli il 730 per questa parte, forse è meglio che ci facciamo seguire da un professionista, perché già io qua mi sono completamente persa. Anche se le istruzioni del modello 730 sono ben chiare. Sono chiare? E indicano. Siamo sicuri? Sono chiare per lei. Sono chiare per lei. Per me un po' meno, le devo dire la verità. Infatti, come sa, la disturbo molto spesso quando io sono alle prese con il mio modello ogni anno. No, tra l'altro, adesso a parte questo, a parte gli scherzi, ovviamente a parte la giornalista del Sole 24 Ore che magari conosce un professionista e ha più facilità, però per chi veramente vuole fare da sé, De Vico, magari da chi può farsi fare un pochino di assistenza senza dover sostenere magari un onere un po' eccessivo in base al proprio bilancio, come adesso ovviamente non è che voglio indagare su quanto chieda un commercialista per potersi far compilare una dichiarazione dei redditi, però ci sono per esempio i patronati, i sindacati, i centri di assistenza fiscale, chiedono anche magari una cifra che è del tutto... Certo, ci sono anche i CAF, ma anche i professionisti abilitati alla trasmissione. I CAF, se ovviamente gli si presenta un modello già compilato con tutta la documentazione fotocopiata, e deve fare un controllo al volo, non chiedono nulla. Viceversa, se gli si chiede al CAF o a un intermediario abilitato ovviamente la consulenza nella compilazione del modello e quindi nelle indicazioni dei rigli eccetera, ovviamente il CAF potrà chiedere un compenso che varia naturalmente anche in base alla complessità. Ah, certo, alla complessità delle questioni affrontate eccetera, naturalmente. Se poi si vuole invece affrontare il modello unico, per cui c'è anche un pochino più di tempo, ci si può rivolgere tranquillamente ad un professionista abilitato, un professionista che poi trasmetterà telematicamente, provvederà a trasmettere telematicamente il modello stesso. 800 24 00 24 è ancora il numero verde a vostra disposizione per i vostri interventi. Sentirei Massimo da Firenze. Buongiorno. Buongiorno Massimo. Senta, io ho un quesito. Allora, io ho 50 anni e vengo da un divorzio dove l'appartamento era di mio e di mia moglie e il tribunale lo ha assegnato alla moglie in quanto ho una figlia che studia. Sì. È passato un annetto, sono riuscito a trovare un piccolo appartamento, vorrei sapere se è possibile io con questo appartamento se posso scaricare dal mutuo gli interessi. No, mi scusi, allora il primo appartamento a cui si riferiva è di sua proprietà? No, è di mio e di mia moglie. Quindi lei voleva sapere se il fatto di essere divorziato e separato le precluda o meno la possibilità di scaricare gli interessi, esatto, della dichiarazione dei redditi. Esatto, dell'appartamento dove abito io ora. Dove è ora? Io l'ho dovuto comprare perché il tribunale l'ha assegnata a mia moglie perché c'è una studente dentro. Sì, sì, certo. Però ecco, il primo appartamento mi pare di capire che sia già di proprietà della moglie, per cui Massimo non vedo perché debba aver preclusa la possibilità di così beneficiare anche di questo, De Vico. Sì, infatti, in caso di separazione, di divorzio, il coniuge che ha trasferito, per così dire, la propria dimora abituale, perché qui ricordiamoci che si fa riferimento ovviamente all'abitazione principale. Esatto, infatti, se questa seconda casa che... o i suoi familiari dimorano abitualmente, questo è il concetto, ecco, di abitazione principale per quanto ci riguarda, quindi il coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale, al coniuge spetta comunque il beneficio, sempre per la quota di sua competenza, quindi la metà del nostro ascoltatore, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i familiari, mi pare di capire che ci abita la figlia. Allora, vorrei riepilogare un po' il caso di Massimo da Firenze, che ci ha raccontato. Tra l'altro, Massimo, lei è ancora in linea, giusto? Sì, sì. Allora, no, volevo capire. La prima casa che ha citato. Esatto, ci dica. Siccome nella dichiarazione 2007-2008 ho portato a un professionista questa mia situazione. e lui mi ha detto che praticamente, essendo ancora proprietario dell'appartamento, però che io non ci posso stare, non posso detrarre l'appartamento che mi sono comprato in un secondo momento. No, infatti quello che non capisco, perché avevo capito addirittura che il primo appartamento fosse proprietà di sua moglie e che in virtù di questo lei fosse rimasta lì con sua figlia e che lei, no, questo secondo appartamento fosse la sua principale abitazione. Quindi forse questa è effettivamente una questione fondamentale da precisare. De Vico. Esatto. Allora, io avevo capito invece, mi pareva di capire che l'appartamento fosse cointestato con la moglie. Va bene, perfetto. E quindi lui chiedeva se potesse detrarre gli interessi passivi su quello. E sì, perché costituisce dimora abituale dei suoi familiari. Non su quello, cioè Massimo. E mi pare che la figlia risieda lì, no? Lì, ma no, Massimo ne ha comprato una seconda di casa. Vuole sapere se può detrarre il 19% sugli interessi di questa seconda abitazione. Sul primo la metà, sul secondo perché il contratto di mutuo è in contitolarità con il coniuge, vero? No, il secondo appartamento no. E allora, il secondo appartamento sono io. Il secondo appartamento allora è solo suo. Soltanto quelli sul secondo appartamento, ovviamente. Può quindi portare in detrazione solo gli interessi del secondo appartamento? Che costituisce a questo punto la sua principale abitazione. E non la dimora abituale dei suoi familiari, cioè della figlia. Però... Che bel ginepraio pure questo. Massimo, faccia una cosa, ci scriva e magari do qualche giorno di tempo a Luciano De Vico per esaminare un po' nel dettaglio la situazione, perché lui dice giustamente l'altro commercialista mi ha escluso questa possibilità, quindi chi ha ragione aspetti un attimo, vada ad un terzo e quindi magari forse troveremo dove pende l'ago della bilancia. De Vico, un altro ascoltatore ci scrive all'indirizzo di Salvadanaio. Mio padre è un pensionato, lo scorso anno ha dimenticato di presentare il 7.30 e tra l'altro ho scoperto che non ha mai inserito gli interessi del mutuo sulla casa acceso nel 2009. Cosa si deve fare, a cosa si va incontro in entrambi i casi? Può presentare un modello unico, non ha presentato affatto la dichiarazione dei redditi, allora innanzitutto occorre vedere se era tenuto a farlo. E quindi se non era tenuto a farlo, è tra i vari casi in cui non si è tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, ce ne sono diversi. Parlo del caso in cui non si è proprio obbligati a presentare la dichiarazione, quindi né 730 né modello unico, e per questo ovviamente occorre andare a guardare l'ammontare del reddito e anche l'ammontare, la presenza per esempio di un'abitazione principale insieme ad altre tipologie di reddito, perché ci ricordiamo che l'abitazione principale viene comunque esclusa, viene compresa all'inizio ma poi viene considerata alla stregua di un onere deducibile. E c'è poi la regola generale per cui l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi non sussiste quando i contribuenti che hanno un'imposta lorda, quella lorda ovviamente prima delle detrazioni, che è diminuita poi delle detrazioni per carichi di famiglia, per lavoro dipendente, pensione e altro, non supera 10,33 euro. Quindi questa a mio avviso è la prima cosa da fare. Poi la dichiarazione quando si considera omessa, se non viene presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza. Esatto, ecco, in questo caso diciamo, pur magari immaginando che il papà di Alessandro non fosse tenuto a presentarla, però in realtà avrebbe potuto farlo, se non altro per avere il beneficio della detrazione degli interessi sul mutuo. Lui dal 2002 non ha mai fatto la richiesta di questo. Si può mettere in regola, se non altro, per riottenere qualche beneficio, appunto? La può fare da quest'anno, ovviamente. Però no, il pregresso ormai è... Sì, certo. È andato perso, Alessandro. Quindi si rimette in regola, magari quest'anno, insomma, può trovare questo beneficio, visto che tra l'altro il tetto è stato anche alzato. Ci sono ancora tantissime domande, è impossibile che io riesca a sentire tutte, però ci proviamo. Patrick da Varese, buongiorno. Buongiorno, senta, niente, un quesito un attimino veloce. Senta, praticamente io sono dipendente statale e praticamente sono residente in Italia, quindi lavoro per lo Stato italiano e mi viene rilasciato, diciamo, a fine anno il CUD, sì. Praticamente il modello 101. Però adesso il problema è che mia moglie lavora in Svizzera, quindi lei pagando le tasse svizzere praticamente tra virgolette non risulta che lavori diciamo che per l'Italia lei non lavora teoricamente. Ecco, adesso volevo sapere come comportarmi per la dichiarazione dei redditi per poter scaricare anche tutte le varie spese mediche, perché abbiamo anche un bambino, ecco, come ripeto, e quindi come organizzarmi un attimo, chi rivolgermi e tecnicamente, ecco, il prezzo proprio tecnico fiscale qual è. Patrick, sentiamo Luciano De Vico se riesce, ad ogni domanda complico un po' il raggio di intervento ovviamente, De Vico, perché se no, se non la metto in difficoltà non sono contenta. Allora, l'ascoltatore mi pare di capire che risiede in Italia. Lui sì, lavora per l'amministrazione italiana, sì. In Italia, per la pubblica amministrazione, sì. Certo, la moglie lavorerà per un datore di lavoro straniero e quindi avrà il suo regime di tassazione. Mi pare di capire che l'esigenza è quella di sapere se le varie spese possono essere portate in detrazione da lui o meno. Sicuramente il coniuge non è a carico, immagino che abbia un reddito superiore a 2.800, ai vecchi 5 milioni e mezzo, e quindi ovviamente non potrà essere considerata a carico. Viceversa, per quanto riguarda gli oneri per i carichi familiari, ricordiamo che la norma prevede ormai da 2 anni che i carichi familiari spettino nella misura del 50%, i figli nella misura del 50% tra i due coniugi, e quindi lui sicuramente potrà portare in detrazione il 50%, avrà diritto a un risparmio di imposta legato al fatto che ha uno o più figli, sempre alla metà. Per quanto riguarda le spese mediche, se i figli le sue ovviamente le potrà portare in detrazione dalla sua dichiarazione dei redditi, mentre per quanto riguarda le spese dei figli, se il figlio è a carico, è a suo carico, potrà portare in detrazione, annotando, questo ricordiamolo, sulla spesa, che la spesa è stata sostenuta da lui per quanto riguarda le spese sanitarie o le altre spese del figlio. Volevo anche tornare un attimo ancora sul caso, che è quello che mi ha incuriosito di più, di Massimo da Firenze, il separato, vuole acquistare la seconda casa, capire se può fare la detrazione degli interessi sul mutuo. Non volevo metterla in difficoltà, De Vico, contestando la risposta che lei ha dato, dicendo insomma che serve una terza sponda. Ovviamente mi sembrava un caso complicato, mi incuriosiva il fatto che invece un altro commercialista avesse detto un'altra cosa, però insomma la discriminante della prima casa mi sembra qui fondamentale. Il tema è capire se per l'ascoltatore quella casa che ha è infatti, esatto, quindi infatti. Insomma bisogna chiarire questo aspetto. Giovanni da Teramo, benvenuto. Sì, buongiorno. Rapidissimo, perché allora, stiamo chiudendo. Sì, allora, sono titolare di un appartamento che fa parte di un condominio. Nel corso del 2008 ho avuto delle spese per ristrutturazione straordinaria. Volevo sapere come posso portare in detrazione la parte spettante che ho dovuto pagare io, in che misura e in quanti anni? Giovanni, guardi, l'amministrazione, credo che l'amministratore di condominio intanto le rilascerà tutta la documentazione necessaria a poter portare in detrazione appunto le spese sostenute. De Vico? Dunque, se le spese straordinarie hanno riguardato il condominio, sì, l'amministratore è tenuto a rilasciare una attestazione a ciascun condomino, ovviamente, che attesta che le spese sono state sostenute da ciascuno in rapporto ovviamente alla propria quota di proprietà. Uh-huh. E quindi con questo documento si va dal CAF o da un professionista, oppure va dal proprietario di lavoro, e quella è la documentazione sufficiente a come dire, quindi l'attestazione dell'amministratore del condominio, uh-huh, a usufruire della detrazione nella misura del 36%. Infatti, se quindi invece le spese non sono condominiali, andava affrontata dall'inizio tutta la pratica, e quindi l'invio della raccomandata al centro operativo di Pescara, l'effettuazione dei bonifici che debbono essere fatti con le indicazioni a cui facevamo riferimento prima, e quant'altro. Però insomma questo non è il caso, e in ogni caso al nostro ascoltatore suggerisco, qualora entro qualche settimana non veda nessun movimento da parte dell'amministratore di condominio, lo solleciti, perché lei aspetta appunto tutta la documentazione per la spesa sostenuta per la sua quota parte, naturalmente. Io lo so, perché noi abbiamo rifatto l'ascensore da un paio d'anni condominiale, per cui il mio amministratore di condominio mi invia tutto regolarmente e io posso sottoporla a Luciano De Vico per aiutarmi a fare la mia compilazione. Grazie De Vico per essere stato con noi e sopravvissuto. Grazie. Anche oggi. Grazie a voi tutti. A fare le dichiarazioni di redditi in diretta. Grazie anche a Gaia Romani, Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione, Peter Bescapè in assistenza tecnica. Salva Danaio termina qui. Noi ci risentiamo come sempre domani mattina alle 8:15 a Soldi e Dintorni, e domani di nuovo alle 12 a Salva Danaio. Buona giornata a tutti. Thank you.